panza, guanta de esa mansa. Los nueve, le tuque, le estudio que la corrida pa' el palomo. Hazte le man in boca, le man in boca, hazte eso te meteró. Le man in boca, hazte le man in boca, le man in boca, hazte eso te meteró. Le man in boca, anda de avento di spalti, a panza batti a reri. Mure muri si fa tardu, senti stufetti i peri. Muovendo bien la cintura, haciendo una macarena. Alza la mano conmigo y grita se, se, se, M-A-N-I-N-B-O-C-C-A. Man in boca que ti perseguita la vita. Mani mani in boca, in boca, in boca, mani mani in boca, mani mani in boca, in boca, in boca, mani mani in boca, mani mani in boca, in boca, in boca, mani mani in boca, mani mani in boca, le mani in boca, adesso ti metterò. Le mani in bocca, le mani in bocca, adesso ti metterò. Le mani in bocca, fatti le mani in bocca, le mani in bocca, adesso ti metterò. Le mani in bocca, fatti le mani in bocca, le mani in bocca, adesso ti metterò. Le mani in bocca, fatti le mani in bocca, le mani in bocca, adesso ti metterò. Le mani in bocca, fatti le mani in bocca. Le mani in bocca, adesso ti metterò. Le mani in bocca.